Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Oggi nuova puntata speciale del nostro programma che ci porterà a Londra, una delle principali capitali dell'espatrio dei giovani professionisti italiani. In occasione della recente conferenza Arrivederci Italia, che ha avuto luogo nella nuovissima scuola italiana della capitale britannica e alla quale hanno preso parte oltre 200 professionisti emigrati, abbiamo messo a confronto 4 giovani attualmente al lavoro sulle rive del Tamigi, un analista finanziario del settore pubblico, un'altra analista del settore obbligazionario, una grafica e una giornalista, tutti riuniti intorno allo stesso tavolo in una fredda serata autunnale. Le loro storie e le loro riflessioni le potrete ascoltare in questa puntata speciale, la terza e ultima della serie natalizia di Giovani Talenti. Mind the gap. Le storie, perché oggi non sarà una storia ma più storie, di questa settimana di Giovani Talenti ci portano a Londra, una delle capitali europee di approdo di migliaia e migliaia di giovani professionisti italiani. Ci troviamo nella neonata scuola italiana di Londra. Con me ci sono alcuni giovani professionisti espatriati che proprio a Londra si sono trasferiti. Andiamo allora subito a conoscerli. Nome: Linda Raggi. Enrica Corzani. Gianluca Minella. Nadia Di Martino. Età: 25 anni. 39. 28. 32. Città di origine: Udine. Cesena. Roma. Milano. Studi: Università Bocconi triennale e Cass Business School Master. Architettura: Bocconi Finanza Pubblica. Media and Business: ho studiato qui a Londra. Quale lavoro svolge attualmente, Linda? Sono un analista in fixed income nel settore obbligazionario in JP Morgan Asset Management. Erika? Graphic designer. Gianluca? Analista del settore pubblico Standard & Poor's. Nadia? Giornalista nel settore cosmetici. Dove, Linda? Londra. Erika? Thomas Manson Company a Londra. Gianluca? Londra. Nadia? A Londra Cosmetics Business. Tornerai, Linda? Spero un giorno. Erika? Forse no. Gianluca? Forse sì. Nadia? Per vacanze. Bene, questo è il primo giro di domande e risposte con i nostri 4 protagonisti della puntata odierna e con loro iniziamo un po' a parlare innanzitutto degli studi che hanno fatto e anche del bilancio che traggono oggi di quegli studi per chi l'ha fatto in Italia e per chi li ha fatti all'estero. Partiamo con te, Linda. Ma i miei studi sono iniziati a Milano, come ho detto prima all'Università Bocconi, ho studiato International Economics and Management, quindi era già una triennale in inglese. Seguito, quando mi sono trovata di fronte alla scelta tra proseguire gli studi in Italia piuttosto che all'estero, ho deciso di venire a Londra per fare un master in banca e finanze internazionali. Enrica? Io ho studiato architettura per disperazione, perché volevo fare il graphic designer, ma non c'è una facoltà di graphic design in Italia, quindi non volevo fare l'accademia, o mia mamma non voleva che facessi l'accademia perché pensa che sono tutti drogati, e quindi mi sono iscritta a architettura, che aveva l'aria un po' più seria. Ho fatto l'architetto per 5 anni e poi sono volata qua a fare il graphic designer. Gianluca? Io ho studiato a Milano, avevo scelto Milano per il corso di amministrazioni pubbliche proprio perché mi interessava il settore pubblico e è stata un'ottima esperienza. Ho studiato là per 5 anni con alcune esperienze sia all'estero sia negli Stati Uniti che in Giappone. Nadia? Io ho studiato a Londra come studente maturo perché non me la sentivo di studiare in Italia dovendo vivere con i miei genitori, quindi ho preferito viaggiare, imparare l'inglese e poi studiare a Londra. A parte Nadia, avete tutti studiato dunque in Italia. Com'è stato un po' il passaggio dal mondo dell'accademia al mondo del lavoro e anche le esperienze che ciascuno di voi ha forse fatto in Italia oppure in alcuni casi avete deciso direttamente di espatriare? Il passaggio è stato drastico ma allo stesso tempo molto interessante. È stato... Io non ho avuto esperienze di lavoro concrete prima di questa e non vedevo l'ora di mettere in pratica quello che avevo imparato durante gli studi, che erano soprattutto in Italia molto teorici. Devo dire che il master a Londra è stato molto d'aiuto in quanto il metodo era molto diverso da quello italiano, c'erano molti più lavori di gruppo, progetti, presentazioni in pubblico. E le presentazioni stesse non erano magari ripetitive durante gli anni, ma erano addirittura aggiornate il giorno stesso con gli articoli di giornale pubblicati la mattina stessa. Quindi era un approccio molto diverso e devo dire servito molto. Allo stesso tempo sono molto contenta anche della preparazione italiana, perché la teoria, soprattutto nel mio lavoro attuale, ci vuole una base macroeconomica che grazie ai professori a Milano tuttora torna utile. Da Linda e Enrica. Forse All'inizio, quando ancora ero in Italia, un po' frustrante, perché mi sembrava di avere sulle spalle tutta questa teoria e niente pratica, mentre tutti gli altri sembrava che ne sapessero di cotte e di crude. Arrivata qua è un vantaggio enorme, perché in confronto ai miei colleghi inglesi, adesso non per infamare loro, poverini, però il nostro bagaglio culturale, dalle scuole superiori all'università, è 100 e 100 volte meglio di quello che hanno loro. Gianluca? Dunque, l'ingresso nel mondo del lavoro per chi vuole rimanere nel settore pubblico è complesso in Italia. Io ho fatto uno stage in una regione che non è stato rinnovato e poi mi sono convertito a lavorare per una società energetica dove di fatto le competenze dei giovani non erano troppo utilizzate, quindi spesso le nostre risorse non erano utilizzate completamente. In Inghilterra mi trovo bene, devo dire la verità, penso che le basi che ci hanno dato in Italia siano molto utili, perché spesso abbiamo una maggiore attenzione al dettaglio e una maggiore elasticità che forse non viene sviluppata nei corsi qua. Nadia? Io ho studiato a Londra e sentendo quello che dice Erika sono d'accordo con lei per quanto riguarda la base culturale, perché mi rendo conto della diversità dei tipi di studi che ci sono nei paesi anglosassoni rispetto all'Italia. Quello che manca in Italia forse è essere un po' più attivi e quindi mettere subito in pratica questo. Mi rendo conto che quando in Italia ti laurei non hai esperienza e non hai modo di entrare a contatto col mondo del lavoro, quindi sono contenta di aver studiato a Londra. Vorrei fare un giro di tavolo, diciamo, con voi su un tema rispetto al quale diversi ascoltatori ci chiedono informazioni, cioè il tema, se vogliamo, della difficoltà o comunque dell'impatto pratico con un paese straniero, in questo caso l'Inghilterra, perché effettivamente non è che si prende semplicemente la valigia e si va. Comunque quando si arriva bisogna trovare casa, bisogna ricostruirsi una rete sociale, bisogna in alcuni casi trovarsi un lavoro. Non è, pur con un'Europa aperta, non è semplicissimo. Allora, Linda, com'è stata la tua esperienza? Beh, il mio primo impatto è stato soprattutto a livello scolastico e lì ho già citato prima le differenze positive e negative. L'impatto nel mondo del lavoro, sono circondata da gente anglosassone, lavoro principalmente con inglesi, e da quel punto di vista è positivo, nel senso che hanno un'efficienza e non perdono un minuto di tempo, quindi da quel punto di vista sono sicuramente soddisfatta. È vero che manca comunque la creatività o quella cosa in più o quella vivacità di un italiano, che onestamente non trovo sul mondo lavorativo, ma per fortuna vivendo a Londra di italiani ce ne sono tanti, quindi si può trovare questo lato la sera probabilmente. Erika? Io sono arrivata qua con la valigia e ho dovuto fare tutto dall'inizio, quindi trovare la casa, aprire il conto in banca, aprire questa cosa che si chiama National Insurance Number che ti serve per lavorare, veramente tutto. E all'inizio mi sembrava di essere veramente ai pazzi, perché qua, adesso lo dico per quelli che stanno in Italia dall'altra parte, tutte le cose si fanno con le bollette. Quindi vuoi aprire un conto in banca, ti chiedono la bolletta del gas o della luce, vuoi qualunque altra cosa, anche quando cerchi casa ti chiedono la bolletta di una casa che non puoi avere. Quindi i primi 2 mesi sono allucinanti per questo, sono allucinanti perché arrivi qua credendo di saper parlare l'inglese come tutti gli italiani che credono di saperlo parlare, non capisci niente. Quindi tutti i primi meeting al lavoro io non capivo niente, dicevo sempre di sì, non è molto facile, cioè, e tutte le cose che credi che sono uguali non lo sono, tipo quando, non lo so, non stai bene e non ti vede il dottore ma ti vede un'infermiera, cioè proprio sono le cose più piccole che un sacco di volte mi fanno mancare l'Italia. Gianluca? Io ho trovato l'offerta da Roma, l'offerta di lavoro, sono partito e all'inizio ci si arrangia un po' come sanno fare gli italiani, no? Quindi ho cambiato un po' di stanze in vari appartamenti, ho abitato con alcuni ragazzi, poi addirittura con una insegnante di tango francese con annessa banda argentina per un periodo, e poi piano piano si ricostruisce una vita. E devo dire la verità, gli italiani qua a Londra poi tendono un po' a fare squadra, essere collaborativi, aiutarsi tra di loro, e questo è un grande vantaggio a mio avviso. Io prima di venire a Londra ho vissuto all'estero, ho vissuto in Irlanda e in Australia, quindi faccio sempre il paragone. Devo dire che Londra per me ha un rapporto un po' di amore e odio, ho trovato questa città molto difficile, tuttora la trovo abbastanza difficile. Diciamo che io avevo lasciato Milano per vari motivi, inclusa la burocrazia, e qui a Londra ho ritrovato la stessa burocrazia. A livello sociale sono abbastanza fortunata perché ho delle colleghe con cui mi trovo bene, quindi in questo senso mi hanno aiutata. Però, come ripeto, è sempre un rapporto di amore e odio su cui sto lavorando ancora. Un tema sicuramente interessante è quello, poi, se vogliamo, anche della selezione all'interno delle offerte di lavoro? Cioè, in Italia, dati di Unioncamere, l'85% delle offerte di lavoro sono nascoste, qui invece, pur nella crisi, probabilmente quello che c'è è sul mercato, no? E allora cerchiamo di far capire qual è la differenza in Gran Bretagna di capacità di selezionare, se vogliamo, dei giovani professionisti. Linda. Ma io sono arrivata qua, il primo giorno di master ci hanno detto iniziate a fare domanda per l'anno successivo, quindi già quello era uno shock, perché io pensavo di mandare il mio curriculum in una lettera e aspettare una risposta. In media avrò fatto penso una ventina di domande di lavoro, c'era gente che ne ha superate le 25, così le 30, quindi devo dire la competizione non manca, però il processo di selezione, secondo me, non so bene come è quello italiano, ma mi è sembrato di capire è molto strutturato qua, nel senso inizi online, mandi il tuo curriculum, alleghi la cosiddetta cover letter dove spieghi le motivazioni per cui vuoi lavorare per questa compagnia o banca. Ci sono una serie di domande standard alle quali devi rispondere e questo costituisce il primo screening, al quale poi se passi in base alle selezioni del sistema della compagnia dovrai fare dei test online matematici, dei test di logica, ai quali se passi ti verrà data l'opportunità di incontrare le risorse umane come primo colloquio, e poi banca a banca o compagnia a compagnia cambiano il numero di colloqui successivi. Nel mio caso sono stati numerosi, però. Enrica? Grazie a Dio non mi hanno fatto fare il calcolo combinatorio online, perché altrimenti non starei qui. Io ho mandato, in Italia non ho mai avuto nessun problema a trovare lavoro, anche cambiando città e passando da uno all'altro, ho cercato di fare più esperienze possibili. Qua è stato un po' quasi esilarante, perché ho preparato il mio curriculum e il portfolio, mi ricordo ero a casa, ho spinto press, send, e non ho fatto in tempo a fare un refresh della mia email, che avevo già le risposte, e mi dicevano allora puoi venire domani, perché io quando ho mandato il curriculum ho finto di essere già a Londra, vabbè, però, e questi qui mi hanno detto allora vieni domani, e quindi io ho preso praticamente la mattina dopo l'aereo, sono arrivata qua, ho fatto i tre colloqui dei tre curriculum che avevo mandato e tutti e tre mi hanno offerto il lavoro. Adesso questo forse in Italia non capita. Gianluca? Il primo punto è un consiglio: serve un cellulare inglese almeno, esatto, quindi anche dall'Italia, perché altrimenti è difficile comunque accedere al processo, che è prevalentemente online, è un processo molto standardizzato, trasparente, e la cosa buona è che di solito c'è una posizione ad aspettarti se vieni assunto, con una certa prospettiva nel medio termine. Questo in Italia non è esattamente uguale. Nella mia personale esperienza, ad esempio, io sono stato selezionato da una società che poi ci ha messo un paio di mesi a scegliere in quale posizione mi avrebbe messo, fondamentalmente. Quindi ho incontrato vari dirigenti che poi alla fine hanno deciso di mettermi, ecco, in una certa posizione piuttosto che un'altra, quindi non è stato chiarissimo dove andassi a parare fin dall'inizio. Nadia? Londra penso che sia un ambiente lavorativo diverso, nel senso che probabilmente ti danno più opportunità di lavoro, ti danno più fiducia, e penso che i datori di lavoro comunque premino anche la tua la forza di volontà. Quando io ho trovato il mio lavoro, il lavoro che sto facendo adesso, semplicemente ho applicato online, ho avuto due colloqui e non avevo esperienza come giornalista, però ho dimostrato di essere interessata, avevo fatto volontariato prima anche all'estero e quindi sono stata assunta. Penso che in Italia forse per una posizione in media e comunicazione ci vuole qualcosa di diverso, per meno conoscenze magari. Infatti poi ne parleremo. Abbiamo una domanda di rito prima di dare la linea al traffico. Come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? Cosa cambieresti e come? Ma questo in breve. Linda. Dall'estero sembra una specie di party di carnevale al momento. È quasi bello essere qua. E allo stesso tempo c'è questa idea dell'italiano che non cambia, che io la supporto, dell'italiano simpatico, dell'italiano che ci tiene a mangiare bene, legato alla famiglia, ai valori. E Enrica? Da un lato, almeno per il lavoro che faccio, noi abbiamo anche molti clienti italiani, quindi da un lato ci sono tutte le industrie, le grosse aziende italiane, o la moda, o le macchine, ad esempio. Dall'altro, poi c'è tutto quello che in realtà arriva qua attraverso i giornali. Purtroppo per il londinese medio, noi siamo ancora quelli della spaghetti e mandolino. Gianluca? Dispiace vedere una situazione ferma da anni, una situazione che non è, che ci ha portato a non essere in grado di competere con altri paesi in Europa. Dispiace vedere tanti italiani bravi e capaci che sono rimasti in Italia, che non riescono a raggiungere quello che vorrebbero. Nadia? L'Italia appare tragicomica in questo momento. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata speciale siamo a Londra e siamo con Linda, Enrica, Gianluca e Nadia, quattro giovani italiani che vivono nella capitale inglese, che hanno scelto di venire a lavorare qui e di mettersi, come dire, alla prova qui. Abbiamo parlato delle loro storie nella prima parte di questa puntata e ora andiamo invece con loro a discutere su alcuni temi caldi che riguardano da vicino proprio il mondo dell'espatrio giovanile. Gianluca, tu ci hai in qualche modo nell'email che hai inviato a giovanitalenti@radio24.it paragonato la differenza che c'è nell'investimento e nella valorizzazione dei giovani tra Italia e Gran Bretagna. Spiegaci qual è questa differenza. La differenza è che un giovane uscito dall'università qua è visto come una risorsa, quindi come un qualcuno che porta della conoscenza nuova, fresca, da applicare immediatamente nel lavoro, quindi con un'elasticità maggiore rispetto a chi già è nel mondo del lavoro e che può portare innovazione fondamentalmente. Quindi si è visti come una risorsa. In Italia vuoi per la categorizzazione che c'è nei tipi di lavoro, vuoi per il fatto che l'età media è un po' più avanzata, non si viene visti come una risorsa, ma fondamentalmente si eseguono dei compiti che arrivano dall'alto e quando si cerca di dare il proprio contributo, quando questo contributo magari eccede ciò che è richiesto, c'è il rischio di pestare un po' i piedi a qualcuno. Posso fare anche un esempio molto pratico. Poco prima della crisi greca stavamo preparando una valutazione per un investimento e io aggiunsi una slide che diceva rischio paese, qual è il rischio paese di investire in questo paese piuttosto che in quest'altro. Venne cancellata. Due settimane dopo tutti gli investimenti furono bloccati perché appunto c'era il rischio paese. Questo è un esempio che dimostra come spesso la possibilità di incidere sia effettivamente ridotta. Sì, in un paese per vecchi si seguono i vecchi modelli, i modelli giovani, tra virgolette, innovativi, che potrebbero dare quella spinta in più, no, Linda, si rischia alla fine di sottovalutarli, non considerarli, e dove va un paese così? Alla fine rischia anche un po' il declino. Qual è la tua esperienza, sempre sul tema giovani, Linda, qui in Gran Bretagna e se vuoi anche un po' paragonata all'Italia? La mia esperienza è che ho iniziato a lavorare a 23 anni qua a Londra, siamo stati assunti poco più di una decina di neolaureati e io ero la più vecchia. Quindi mi sono resa conto che in Inghilterra la gente comunque fa un percorso di laurea magari triennale o come dico undergraduate e poi iniziano subito a cercare lavoro, perché come diceva Gianluca qua siamo visti come una risorsa da utilizzare subito da freschi. Quindi nel mio caso lavoro con gente con più esperienza, ma l'età media è abbastanza giovane, sanno esattamente il tuo background, quindi se possono utilizzare una tua conoscenza specifica piuttosto che un'esperienza che hai affrontato durante gli studi, cercano di sfruttarti al 100%, che è bello perché ti senti comunque parte del gruppo e senti che puoi aggiungere a tuo modo valore all'output. E poi c'è la questione, se vogliamo, di un paese che insomma fa dell'arte, della creatività una sua bandiera, però no, Enrica, quando dici sono un graphic designer, insomma svolgo lavoro come grafica, ti vengono magari anche a dire sì, ma questo lo sa fare anche mio nipote con qualche programma, no, di Corel Draw. Eppure certe professioni andrebbero valorizzate se si hanno le competenze professionali, no? In Italia mi è capitato spesso e anche questo è il motivo per cui a un certo punto ho deciso di andarmene, perché il graphic design, per come l'ho sempre pensato e inteso io, comprando tutti i libri inglesi e tedeschi e documentandomi, non sono le belle illustrazioni o la creatività fine a se stessa, ma è una disciplina, e non è a caso i più grandi graphic designer sono tedeschi, è una disciplina che ha le stesse regole dell'architettura o della finanza ed è estremamente importante, perché poi qui a Londra la cosa che facciamo soprattutto è branding e quindi corporate identities, quindi marchi per le aziende, tutta la comunicazione che serve ad un'azienda per comunicare con il mondo esterno. In Italia, secondo me, questo lo dice sempre il mio capo, dice che siamo vivi e vendiamo per miracolo. E poi Nadia, tu lavori in un settore come quello del giornalismo e della comunicazione, dove in Italia purtroppo serve conoscere qualcuno e serve la classica raccomandazione. In Inghilterra mi pare proprio di no, e forse noi stessi ci siamo fossilizzati a pensare debba essere così, ma in realtà in un paese normale non è così. Infatti io ho due punti fondamentalmente riguardo questo settore. Il primo, come dici tu, è quello della raccomandazione. In Italia devi avere delle conoscenze, a Londra è sufficiente dimostrare la buona volontà e l'interesse. Ovviamente io ero interessata alla scrittura e al giornalismo, penso che il giornalismo sia un sogno, quindi è qualcosa in cui metti una passione. Quindi a Londra è possibile trovare un lavoro di questo tipo. Il secondo punto che voglio fare è quello che riguarda, diciamo, la fiducia, perché a Londra un datore di lavoro ti dà fiducia, che per definizione è qualcosa che non ti guadagni, ma è qualcosa che una persona ti concede. Quindi a me hanno dato la fiducia di imparare a diventare una giornalista, ed è quello che ancora mi stanno dando. Ma in Italia non penso che questo sia possibile. Chiediamo col nuovo anno che le cose cambino, magari quest'anno è l'anno buono. E per chiudere la domanda di rito che facciamo sempre, quale consiglio dareste a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà, che sta pensando tra le varie vie di uscita anche a un espatrio? Linda. Assolutamente, andate all'estero, vivete un'esperienza al di fuori dell'Italia, non abbiate paura della lingua, la lingua si impara anche per necessità, e se c'è bisogno di tornare a casa siamo a 2 ore di volo, quindi non è un problema. Salvo ritardi. Erika. Una cosa che vorrei dire a quelli che ci stanno pensando: non fatelo per disperazione, ma fatelo per passione, perché qua non sono stupidi. La linea può sembrare sottile quando uno si trova a casa, ma come è successo a Nadia, è la passione che ci ha fatto assumere. Ed è quello che un sacco di volte ci dà quelle carte in più rispetto ai nostri concorrenti inglesi. Gianluca? Basta andare online e prenotare un biglietto low cost, non ci si mette molto. Mi auguro che sia un biglietto con un ritorno, prima o poi, però penso che la cosa importante, come dice Enrica, sia avere passione e pensare bene a quello che si vuole fare quando si viene qua. Nadia? Sì, sono d'accordo, un biglietto low cost è anche un sogno. E siamo giunti allo spazio dedicato alle associazioni e alle iniziative che si occupano di quella che possiamo definire come la nuova emigrazione. Oggi andiamo a Madrid per parlarvi di un sito che negli ultimi anni è diventato un punto di riferimento per la crescente colonia di italiani nella capitale spagnola. Luca Zolino, fondatore di Italiani a Madrid. Nasce nel febbraio del 2008, giusto intorno al 14, quindi è stato un gesto quasi d'amore. Nasce perché io ero arrivato da poco e già partendo dall'Italia mi ero reso conto che mancavano parecchie informazioni, non si trovavano informazioni online su zone, come vivere, come trasferirsi, tutto questo. Ero partito dall'Italia con già l'idea di fare qualcosa perché vedevo che mancava. Poi arrivato qui ho conosciuto i due amici che mi hanno seguito in questa avventura. Insieme a loro abbiamo iniziato dando informazioni per tutti gli italiani che arrivavano qui a Madrid. Che tipo di italiani sono quelli che stanno arrivando ora a Madrid? Ci sono diverse tipologie, in effetti. Beh, gli Erasmus, che non mancano mai. Poi ci sono gli ex Erasmus, che sono venuti qui a fare l'Erasmus, si sono innamorati o della città o delle persone che la abitano e quindi hanno deciso di ritornare. E poi ci sono molti professionisti o gente laureata con master che non riesce a trovare un posto in Italia e ci prova a Madrid. E questa è una bella domanda, perché la nostra trasmissione si occupa proprio di giovani professionisti che lasciano l'Italia. È un po' bizzarro, se vogliamo, che un paese in crisi come la Spagna offra maggiori opportunità a giovani professionisti italiani, è così? Senza dubbio la sensazione è quella. Molti degli amici che ho conosciuto, delle persone più professionalmente qualificate che vengono qui a cercare un futuro migliore, lavorano nel campo della ricerca, per esempio. Poi in generale, diciamo, Madrid è una città molto molto internazionale, sebbene sia da un punto di vista culturale magari molto spagnola, però per quanto riguarda le possibilità professionali è molto molto internazionale. Poi da qui, dall'arrivare a Madrid con un buon curriculum e tante aspettative e trovare quello che si cerca, questa è un'altra cosa. Madrid offre anche una buona qualità di vita, quindi è un buon compromesso, nel senso, io provo all'estero, male che mi vada, mi faccio un'esperienza, imparo la lingua. E quali sono i settori dove gli italiani giovani trovano più facilmente lavoro, oltre alla ricerca? Io conosco persone tramite il blog che lavorano effettivamente in tutti i settori. Lavorando io in internet, nel web, conosco moltissima gente, moltissimi italiani, anche che occupano posti di livello in aziende internazionali, che lavorano nel mio stesso settore, quindi nel web marketing, nel marketing in generale. Però conosco anche persone che lavorano in istituti bancari, che fanno consulenze finanziarie ad altissimo livello, e sono tutti profili giovanissimi che non pensano di tornare in Italia perché qui hanno trovato la loro strada, diciamo. E questo espatrio verso la Spagna è un trend in crescita dal tuo osservatorio? C'è stato un calo da quel punto di vista. Va calando per quello che si dice in Italia della situazione spagnola, che viene descritta in maniera secondo me eccessivamente impietosa, e poi anche perché comunque la crisi effettivamente c'è. C'è però secondo te più meritocrazia nella selezione in Spagna? Assolutamente, sì. Torniamo al sito Italiani a Madrid. Che tipo di informazioni offrite? Dall'esperienza personale